Componimento nono del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Quando il pianeta che distingue l'ore ad albergar col Tauro si ritorna, cade vertù dall'infiammate corna che veste il mondo di novel colore, e non pur quel che s'apre a noi di fore, le rive e i colli di fioretti adorna, ma dentro dove già mai non s'aggiorna, gravido fa di sé il terrestro umore, onde tal frutto e simile si colga, così costei che tra le donne un sole, in me movendo de begli occhi rai, cria d'amor pensieri, atti e parole, ma come ch'ella gli governi o volga, primavera per me pur non è mai. Fine del componimento.